أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم هنا. Buonasera, siete collegati con una nuova puntata di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Come di consueto abbiamo in collegamento telefonico Davide da Milano. Davide, ci senti? Tutto bene? Sì, vi sento forte e chiaro. Buonasera a tutte e tutti. Perfetto. Allora io direi, come di consueto, di delineare quella che sarà un sommario della puntata che ci apprestiamo ad affrontare. Oggi è martedì 30 novembre, sono le 19:32, trasmettiamo in diretta. E in questa puntata di Andala parleremo appunto della giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese che c'è stata proprio ieri 29 novembre e purtroppo dobbiamo anche riportare l'intesa che c'è stata tra il Marocco e Israele. E quindi ne parleremo più nello specifico, anche insomma prendendo spunto dalla pagina dei giovani palestinesi in Italia. E come inoltre ci sarà la nostra nuova rubrica Cronache di Apartheid, in cui relazioneremo varie notizie che purtroppo ci giungono dalla Palestina occupata e che hanno il sapore amaro della discriminazione, della pulizia etnica e quindi dell'apartheid. E ancora una volta dobbiamo parlare di Libano, che non solo è in crisi, ma c'è anche una crisi della libertà di espressione, e proprio in merito a questo ci riferiremo all'articolo comparso proprio oggi su Pagine Esteri a firma di Sara Alawia. Beh, ieri Davide c'è stata la giornata di solidarietà internazionale con il popolo palestinese. E noi avevamo pensato non solo di ricordare questa cosa, ma anche di riportare quello che è stato un breve comunicato, un breve post sulla pagina Facebook dei giovani palestinesi in Italia. Sì, Michele, anche perché riassume bene il significato di questa giornata, perché ricade proprio il 29 novembre, la giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, e infatti nel 1977 fu dichiarato proprio questa data del 29 novembre quale giornata internazionale di solidarietà col popolo palestinese. Questa giornata costituisce tradizionalmente un'opportunità per la comunità internazionale di concentrare la propria attenzione sul fatto che la questione palestinese rimane irrisolta e che appunto il popolo palestinese è ancora privato dei propri diritti inalienabili, quali quelli definiti dall'Assemblea Generale il 1 dicembre 2005 con la risoluzione 6037, il diritto alla autodeterminazione senza ingerenze esterne, il diritto all'indipendenza e alla sovranità nazionale e il diritto al ritorno nelle loro case e proprietà da cui sono stati allontanati. Secondo la risoluzione dell'Assemblea Generale 3240B del 2 dicembre 77, la giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese viene osservata in occasione dell'adozione da parte dell'Assemblea il 29 novembre del 47 della risoluzione 181, nota anche come Partition Resolution. La stessa prevedeva la spartizione della Palestina in due stati e si definiva Gerusalemme un corpus separatum sotto tutela internazionale. La risoluzione ONU assegnava 5.500 miglia quadrate, circa 14.000 chilometri quadrati allo Stato ebraico e solo 11.000 chilometri quadrati ai palestinesi che possedevano il 94,2% della terra e rappresentavano oltre i due terzi della popolazione. La pulizia etnica della Palestina iniziò immediatamente dopo l'adozione della risoluzione. Nel dicembre del 47, infatti, ci furono attacchi sionisti organizzati contro centri abitati palestinesi che provocarono l'esodo forzato di 75.000 persone. In seguito i territori palestinesi si ridussero al 22% della dimensione storica della Palestina. Oggi, il 29 novembre, è soprattutto una giornata volta a richiamare l'attenzione della comunità internazionale sulla questione palestinese, che ha visto l'obiettivo dei due stati rivelarsi fin dalle origini come un progetto utopico teso a favorire la colonizzazione del territorio palestinese e a calpestare i diritti del suo popolo. Quindi ci tenevamo a leggere questo post anche perché, come dicevo all'inizio, racchiudeva un po' il significato di questa giornata, anche come questa nasca per giustificare anche questa risoluzione ONU del 47, che la Partition Resolution, che stabiliva appunto una divisione iniqua dei territori palestinesi. Ovviamente questa data è utilizzata a livello internazionale proprio per richiamare l'attenzione sul fatto che a più ormai di 70 anni dalla partizione della Palestina, la condizione dei palestinesi resta sempre, anzi si tende a peggiorare di giorno in giorno. Come poi vi anticiperemo e vi ricorderemo nella rubrica successiva, nelle prossime notizie, e appunto davanti a questa ingiustizia crescente nei confronti del popolo palestinese, la comunità internazionale resta a guardare. E quindi la data del 29 novembre deve essere un monito per tutti, soprattutto per mettere in evidenza quelle che sono le atrocità e i crimini commessi dallo Stato sionista, che è una potenza occupante, molto spesso si dimentica questo termine, che Israele è uno Stato occupante. Bene, ritorniamo in voce, in diretta, e appunto parliamo di una delle notizie elencate in scaletta, che è appunto il nuovo accordo con l'entità sionista che aumenta la complicità attiva del Marocco nell'uccisione dei palestinesi. Questo perché? Perché infatti si tratta di un accordo senza precedenti. Il primo protocollo di questo tipo che venga stipulato tra Israele e uno Stato arabo. E il 24 novembre 2021, ad un anno dalla normalizzazione delle loro relazioni, Marocco e Israele hanno firmato un memorandum d'intesa. Questo vuol dire che da ora in poi condivideranno informazioni di intelligence In passato questo tipo di comunicazione coinvolgeva esclusivamente i servizi segreti. L'accordo inoltre faciliterà la vendita delle armi israeliane al Marocco e l'avvio di esercitazioni congiunte. Questo è un evento altamente significativo che ci permetterà, di entrare nei progetti, comuni e consentirà l'esportazione dell'industria della difesa israeliana, così ha detto Benny Gantz, ministro della difesa israeliano, dopo la firma. L'omologo marocchino accanto a lui era sorridente ed estremamente orgoglioso. Di cosa poi? Forse lui, non sa cosa sia, ma i palestinesi sì. I palestinesi sanno bene cosa sia la famosa industria della difesa israeliana. È quella serie di macchine della morte e della distruzione usate sistematicamente ed in modo illegale contro di loro, ogni giorno da più di 70 anni. Quell'industria della difesa non è altro che l'industria del genocidio premeditato e impunito di un popolo totalmente abbandonato dalla comunità internazionale. D'ora in poi, il Marocco accoglierà a braccia aperte tutto questo e collaborerà militarmente con tutto questo. E noi non possiamo che, dirci estremamente delusi, affranti e anche molto arrabbiati. Solo una cosa ci solleva il morale: sapere che questa scelta non rappresenta affatto la volontà del popolo marocchino, che anzi da sempre è vicino alla causa palestinese e ama la Palestina con tutto se stesso. Ci tira su la consapevolezza che i palestinesi possono. La lunga linea della storia insegna che quando il popolo vuole e unisce le forze, riesce a cambiare le cose. Solo questo. Per il reso, vergogna, vergogna, e al governo marocchino e a tutti quelli che hanno permesso che un accordo così meschino potesse compiersi. E infatti, proprio in merito a questo, nel nostro sommario, elencavamo pure appunto la notizia, di questa storica intesa che appunto non rappresenta soltanto un ulteriore passo in avanti oltre la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi che c'era stata già in passato, lo scorso anno, ma al contrario, come ci ricorda Marco Santopadre, anzi proprio in questa direzione, scusate, questo rappresenta semplicemente un ulteriore accordo militare. Infatti, il Marocco, riferisce la stampa in lingua ebraica, ha comprato dalle industrie militari israeliane droni killer per 22 milioni di dollari. E quindi, scrive Marco Padre, il Marocco ha normalizzato le relazioni con Israele un anno fa, quando in cambio della rimozione del suo ostracismo nei confronti dello Stato ebraico, Rabat ha ottenuto dall'amministrazione Trump il riconoscimento dell'annessione dei territori del Sahara occidentale. La decisione del Marocco seguiva quella analoga di Emirati Arabi Uniti e Bahrain, nell'ambito dei cosiddetti accordi di Abramo siglati con Israele. In seguito si è aggiunto il Sudan, il 15 settembre 2020, grazie alla mediazione degli Stati Uniti. Ecco, l'articolo di Marco Santopadre, che è anche molto dettagliato, e quindi vi invitiamo a consultarlo anche sulla pagina di Pagina Esteri, appunto sul loro sito, parla appunto di come tra questi due paesi purtroppo si stiano ramificando, si sono ramificati questi accordi, che non sono soltanto degli ammiccamenti politici, ma che sono andati ben oltre, perché appunto si parla di accordi militari, di compravendita di armi, e purtroppo, lo ricordiamo, Israele è uno dei più grandi esportatori mondiali di armi, e utilizza Gaza come laboratorio a cielo aperto. Quindi, in questo dettagliatissimo articolo di Marco Santopadre, appunto elenca quelli che sono stati i vari punti a livello cronologico che hanno portato poi a tutto questo. Fatto sta che, da un lato, il governo marocchino, che, come ci ricordavano i giovani palestinesi in Italia, non rappresenta assolutamente in questo quella che è la volontà del popolo marocchino, che al contrario sente molto la causa palestinese ed è vicino al popolo palestinese. Ma addirittura, appunto, questo governo marocchino disporrà dei droni killer israeliani che purtroppo, Davide, sappiamo che mietono molte vittime palestinesi. Problema tecnico, ben visibile. Tutto ciò è divertente. Madness once and beyond in a Napolitan version. Uscire si sposta sta terra e mi porta lontana. Niente cattura di fiero, mo passa pa mano. Bello mestiere d'ore, prima pensando che a me uno governo più forte facesse care. The rock steady me. Viene la cattura di fiera che matura ma non c'è me. Oggi portata la pistola e non c'è niente in mano. Bella regina rotta, sento che parlo di te. Come compagna si morte e tu senti un re. Sottarda, sottarda, finisce a comando come ogni esecuzione che si rispetti, tipo come quello rispetto della legge. Comandate per cortesia il finale, basta dire mo. Un attimo prima. Thank you. E chi sarà Michele, torniamo in studio con la nostra rubrica che abbiamo inaugurato la settimana scorsa, quella di cronache di apartheid, dove vi daremo una serie di notizie che appunto stanno a testimoniare quella che è l'apartheid quotidiana che devono subire i palestinesi. La prima, che risale al 26 novembre, è quella della costruzione di nuove 372 unità abitative che è stata approvata a Hebron. Infatti le autorità di occupazione israeliane hanno approvato giovedì scorso un nuovo piano di insediamento in Cisgiordania e fonti dei media israeliani hanno affermato che il Local Planning and Building Committee israeliano ha approvato la costruzione di 372 nuove unità abitative nell'insediamento illegale di Kiryat Arba ad Al-Khalil, nota con il nome israeliano di Hebron. La dichiarazione è arrivata in coincidenza con la visita del presidente israeliano Isaac Herzog all'insediamento illegale. Gli insediamenti israeliani sono considerati illegali secondo il diritto internazionale e circa 700.000 ebrei israeliani vivono appunto in questi insediamenti nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme Est. L'espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata e nel Gerusalemme Est occupata è continuata sotto ogni governo israeliano dal 1967, seppur illegale secondo le risoluzioni internazionali. Tuttavia la costruzione ha accelerato negli ultimi anni sotto il governo dell'ex primo ministro Benjamin Netanyahu, come vi abbiamo anche più volte sottolineato nel corso delle nostre trasmissioni in tutto questo tempo in cui siamo stati insieme, e c'è stato un boom significativo durante l'amministrazione statunitense di Trump, in particolare, che i palestinesi hanno accusato degli eclatanti pregiudizi pro Israele. Ovviamente con Trump Netanyahu si è sentito la mano libera di fare quello che voleva, cosa che non è che fosse si modificasse rispetto al precedente Obama, che è stato anzi il più grande finanziatore a livello militare di Israele. Però con Trump, diciamo, con lo spostamento anche dell'ambasciata, Netanyahu si è avuto campo libero e la colonizzazione è aumentata a dismisura. Proprio in tema di colonizzazione e di pratiche di apartheid, infatti a Gerusalemme proprio ieri la corte israeliana ha autorizzato la demolizione di 58 case nel quartiere di Silwan, uno dei quartieri da cui è incominciata anche la protesta dello scorso maggio. Infatti un tribunale israeliano ha dato il via libera alla demolizione di queste 58 case palestinesi, allo sfollamento dei loro residenti nel quartiere di Wadi Yosul nel distretto di Silwan a Gerusalemme Est, con il pretesto della costruzione senza licenza. Secondo fonti locali, domenica sera un tribunale israeliano ha respinto un ricorso presentato da cittadini gerosimiltani contro la demolizione delle loro case. In base a questa decisione è diventato possibile per la municipalità israeliana di Gerusalemme occupata radere al suolo queste 58 case su 84 minacciate di demolizione nel quartiere. Circa 60 persone, tra bambini, malati e anziani, rimarrebbero senza casa se il comune adottasse la misura. 1050 cittadini di Gerusalemme vivono in questo quartiere, che si trova a sud-ovest di Silwan. Dal 2004 i residenti del quartiere hanno cercato di ottenere la licenza per le loro case, ma senza successo. Secondo il funzionario locale Khaled Sueiki, l'autorità di occupazione israeliana vuole demolire questo quartiere e dislocarne i residenti per stabilire quella che chiama la foresta della pace. Bello questi nomi che poi trovano per creare questi parchi pubblici dove comunque vivono su terra palestinese. Un'ulteriore notizia da apartheid proviene in questa volta invece da Nablus, dove le truppe di occupazione hanno arrestato due minorenni palestinesi durante i raid notturni. Infatti i soldati israeliani hanno arrestato due ragazzi dopo aver invaso le loro case durante un raid notturno vicino Nablus, nella Cisgiordania occupata, costringendoli a trascorrere una notte fredda in custodia prima di essere liberati senza spiegazioni, secondo quanto riportato venerdì dal quotidiano israeliano Arez. Yasser Arafat Shkeir, spero di averlo pronunciato decentemente, di 12 anni, e il suo amico Yazen Kados, 11 anni, sono stati arrestati il 24 ottobre durante un raid notturno nel villaggio d'Al-Zawiya, dopo essere stati accusati di aver lanciato pietre contro i soldati israeliani. I soldati hanno anche ordinato al fratello maggiore di Shekeir, Mutasim, di 22 anni, al padre di Kados, di 42 anni, di andare con loro. I quattro sono stati trasportati da un posto all'altro, ammanettati e bendati per molte ore. Nessuno dei soldati ha mai offerto loro cibo o riparo dal freddo, ha riportato il quotidiano israeliano. Nessuno ha parlato con loro, né li ha informati del motivo per cui erano stati arrestati in quel modo, ha aggiunto poi il rapporto. E dopo circa 15 ore sono stati riportati all'ingresso del loro villaggio ed è stato detto loro di tornare a casa, senza fornire nessuna spiegazione e senza nessuna accusa. accuse in sostanza. Quindi le forze israeliane spesso effettuano questi raid notturni in Cisgiordania per arrestare i palestinesi e accusandoli anche di pianificare un futuro reato. Questo è il nuovo codice penale israeliano. Migliaia di palestinesi sono stati messi in detenzione amministrativa israeliana per mesi e senza processo, proprio senza alcun motivo, ed è anche la scusa con cui vengono arrestati molti attivisti politici. Un'ulteriore, a conclusione della nostra rassegna, vi diamo questa lettura sommaria di un articolo che è apparso su Improvalla proprio oggi e che riguarda appunto le tecniche di tortura, o meglio, come i soldati israeliani si divertono a sparare i palestinesi. Prima, però, proprio per non dimenticare nulla tra una notizia di occupazione e l'altra, vi ricordiamo anche che l'esercito di occupazione ha preso d'assalto la tomba di Giuseppe vicino a Nablus e ci sono stati diversi feriti e asfissiati dai lacrimogeni. Infatti, le truppe di occupazione hanno scortato alla tomba di Giuseppe a Nablus un convoglio di autobus carichi di centinaia di coloni fanatici nel sito appunto localizzato nell'area controllata dai palestinesi, scatenando dei violenti scontri. I soldati hanno anche aperto il fuoco sui manifestanti che protestavano contro il raid dei coloni e che tentavano di bloccare l'accesso agli stessi. Il direttore del Dipartimento di Emergenza della Mezzaluna Rossa palestinese, Ahmad Jibril, ha affermato che i medici hanno fornito cure a 3 manifestanti colpiti da proiettili di acciaio vestiti di gomma, di cui uno al petto, e li hanno trasportati d'urgenza in ospedale. E altre 33 persone sono state curate sul posto per gli effetti dei gas lacrimogeni. Detto ciò, ritorniamo alla notizia di chiusura di questa nostra rassegna, appunto quella che riguarda alcuni ex soldati israeliani. La traduzione dell'articolo di Al-Mayadeen di Rasha Reslan, dove questi 6 israeliani, nei loro racconti, rievocano in un video le atrocità che hanno commesso in una realtà attraverso un racconto che purtroppo reale, che è di una realtà sconcertante e che riflette appunto la gravità della situazione ad Al-Khalil da un punto di vista dei crimini contro l'umanità. Il virgolettato dei soldati: ai soldati piace proprio sparare proiettili coperti di gomma, per loro è divertente, tutti si danno il 5. Sei fantastico, l'hai beccato. Di recente il New York Times ha ottenuto dal regista ed ex soldatessa israeliana Rona Segal un documentario breve, Mission Hebron, e queste le parole che prima vi dicevo in apertura sono proprio appunto quelle di soldati israeliani, dove si complimentano per aver centrato il bersaglio. Ed è la prima volta negli ultimi anni che un documentario mette in luce una parte delle sofferenze giornaliere dei palestinesi, una realtà sconvolgente che raramente è consentita all'opinione pubblica di vedere, in quanto Al-Khalil è considerata la più grande città della Cisgiordania occupata ed è l'unica in cui i coloni israeliani abitano accanto ai palestinesi, accentuando quindi le loro sofferenze. Passeggiare per Al-Khalil è davvero triste. E vedere quelle recinzioni che coprono il centro storico con tutti i negozi chiusi è davvero un pugno allo stomaco. Nei 6 capitoli comunque di questo breve documentario vengono inquadrate appunto le atrocità di Al-Khalil. 6 soldati dell'occupazione israeliana, tutti arruolati all'età di 18 anni, descrivono la loro cosiddetta missione ad Al-Khalil. A loro è stato affidato infatti l'incarico di proteggere e controllare i coloni israeliani e questi soldati, appena maggiorenni, è stato dato un totale controllo sulle vite dei palestinesi in città. Questi 6 ex soldati descrivono in un set in studio la loro missione basata sui doveri stabiliti dalle loro regole di ingaggio. I coloni ad Al-Khalil sono controllati e protetti attraverso una serie di strategie, quindi rendendo al contempo insopportabile la vita dei civili palestinesi. I soldati ricordano la loro confusione, il loro odio, il loro disagio e la missione principale, come ci sottolinea Rasha nel suo articolo, è di controllare e proteggere i coloni israeliani ad Hebron, virgolettato. Quindi ciò risulta chiaro che la crescente e sempre più grave violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi viene attuata con l'esplicito appoggio da parte delle autorità di occupazione, e quindi i soldati israeliani sono complici, hanno anzi l'ordine di chiudere gli occhi di fronte alle violenze dei coloni. Infatti, i soldati israeliani molto spesso affermano che i coloni illegali possono, non si uniscono, non tendono di disperdere i coloni quando questi compiono atti illegali nei confronti dei palestinesi, in quanto hanno paura di ritorsioni. Gli aspetti più sgradevoli della missione è appunto quello di dover continuamente rendere la vita insopportabile ai palestinesi. Poi viene ripreso nel racconto di questo cortometraggio, che da vedere, anche di quella che è Shuaida Street, la zona, la strada sterilizzata senza i palestinesi, ciò a cui sono sottoposti costantemente. È davvero atroce vedere quello che succede ad Hebron e vedere anche questi coloni armati che possono girare indisturbati mentre continuamente ai palestinesi vengono fermati ai checkpoint anche per passare da una zona all'altra della città, che ricordiamo è divisa in zona H1 e H2, e quindi una parte sotto il controllo israeliano, l'altra sotto il controllo relativo palestinese, e quindi è davvero insopportabile la vita dal Calibro. Vi invitiamo comunque a leggere l'articolo apparso su Infopal oggi 30 novembre, e a chi può poi la possibilità di andare sul posto e capire realmente come si vive ad Hebron, come si vive nella Cisgiordania occupata. Hebron possiamo dire che è lo scempio, è l'emblema evidente di quello che è il disastro di Oslo. Sto cercando di trovare le parole. Ho bisogno di parole, parole convincenti, parole penetranti che ti fanno un buco in testa e che poi lasciano frammenti in ogni dove. Schizzi di miseria, chiazze di paura, brandelli di sogni, resti di cultura. Parole come raffiche di mitra in un mercato, come missili sparati al terzo piano di un palazzo, che facciano male, cazzo. Parole tanto forti da zittire tutto il mondo occidentale, solo per un attimo, soltanto per provare ad ascoltare l'impotenza e il rancore. Parole a fare male, picchiate sulla faccia come calci di fucile, pugni, sputi e schiaffi, parole, parole a ricordare, per non dimenticare che lo Stato di Israele si è insediato in Palestina con la guerra, 35 anni fa, e che non se ne va niente, la grande Israele già si chiama Filastin e 200.000 loro non tenevano diritto a s'insediare. Ma quale equidistanza qui? Parole partigiane a fare agguati a carri armati che rincorrono ambulanze, parole per cercare di fermare la mattanza, coscienti che farebbero più effetto un po' di missili anticarro e che in sostanza parliamo per parlare mentre in Filastin si lotta e muore coltivando la speranza di veder nascere un fiore. Sotto a 1.000 creature, massacrate senza ragione agli israeliani in dei territori, hanno abbattuto 600 palazzi e deportato 2.000 persone in 15 anni, che loro la chiamano una guerra contro terrore, o là da là si chiama intifada e sta per rivolta la popolazione contro terrorismo Israele, contro i soldati, contro le colonie, cacchio e 30 anni, 1.000 agenti impedendo la libera circolazione, la roba che l'hanno rubata terra, voglia campare, lavoro e l'amore. Allora ha paura in Israele, noi forza una capimma, perché non si scema contestualizzammi una cosa, capimma, capimma, che non mi trattate 30 anni come un animale, diventa una bestia, affamata, impaurita e pertanto feroce, chi ne cazzimma è normale, è naturale, chi ha bestia è feroce, chi ha bestia è padrona, bestia, chi ha bestia è sempre padrona, bestia è l'impero che fa dottrina, a morte la bestia, viva Palestina! Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filastin, Filast la Hardy y la Filestin. Audo min hagli hawiyati mitla jaddi kabla mi atruqwa Filestin. Audo horro kayaktaru ana kuna usfurna aw akuna shajaratan kamara hibba jaddi. Lakin hakia Hardy huna yadi wa nahuda ila Hardy ila Filestin. Ritorniamo in voce con l'ultima notizia che avevamo in scaletta e torniamo a parlare di Libano. Purtroppo, come succede da ormai 2 anni a questa parte, non parliamo di cose belle. Infatti leggiamo questo articolo comparso oggi su Pagine Esteri a firma di Sara Alawia. Nel Libano in crisi è in pericolo anche la libertà di espressione. 100 anni dopo la nascita del Grande Libano e 30 anni dopo la conclusione formale della sanguinosa guerra civile, non è stato solo il porto di Beirut ad essere saltato in aria il 4 agosto del 2020. La crisi politica, economica e sanitaria iniziata nell'ottobre del 2019 è culminata letteralmente nell'esplosione del paese. Ma quasi 2 anni dopo, anni che hanno visto la pandemia di Covid-19, un'esplosione devastante al porto di Beirut e l'iperinflazione che ha impoverito il popolo libanese, il paese è diventato per molti libanesi un inferno. La gente comune lotta per procurarsi cibo, carburante e medicine scarse e inaccessibili. La promessa della rivoluzione del 17 ottobre, come la chiamarono i manifestanti, sembra un lontano ricordo. I dati della Banca Mondiale mostrano che l'economia libanese si è contratta del 20% nel corso del 2020, con un'ulteriore contrazione prevista del 9,5% quest'anno. Ciò rende la crisi economica del paese una delle più gravi al mondo, dalla metà del XIX secolo. Man mano che cresce l'insoddisfazione nei confronti del sistema, aumentano anche le repressioni contro i dissidenti. Proprio recentemente le forze di sicurezza hanno impedito al teatro Al-Madina di Amra Street di Beirut di tenere uno spettacolo di Danfiseh, dall'arabo Sfogarsi, con l'accusa di aver insultato l'immagine del presidente Michael Aoun nella commedia. Le pratiche di censura e oppressione trovano spazio anche nei social media. L'Ufficio per i crimini informatici del paese ha condotto 4.154 indagini per diffamazione tra il 1 gennaio 2015 e il 7 dicembre 2020, secondo Human Rights Watch. SMEX, Social Media Exchange, ONG libanese per lo sviluppo e la difesa dei diritti digitali, ha riportato un incremento delle limitazioni del dissenso pubblico e delle opinioni espresse sulle piattaforme digitali. Secondo il rapporto di SMEX del 2020, 7 persone sono state arrestate per attività online nel 2020 e 42 sono state convocate dai funzionari della sicurezza per la loro attività online. 12 dei convocati sono stati accusati di diffamazione e calunnia e 9 sono stati accusati di aver criticato il presidente. Nonostante il paese sia firmatario di un ampio numero di convenzioni e trattati internazionali che affermano il suo impegno nella protezione della libertà di espressione, le sue leggi vanno in netta contraddizione con i valori di libertà. Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un grave deterioramento dei diritti umani in Libano, ha affermato Bitar. Storicamente il Libano era uno dei paesi più liberali del Medio Oriente, aveva libertà di espressione e di manifestare, oggi non è più così. Le organizzazioni della società civile hanno raccolto dati sull'uso della legislazione che il governo ha adottato per punire giornalisti, attivisti e cittadini, di modo che si potesse avanzare la richiesta di leggi che tutelino la libertà di espressione nel paese. Questa documentazione non è stata accolta favorevolmente dai politici, dalla magistratura e dai servizi di sicurezza nazionali, che avallano la sospensione delle opinioni. La censura mediatica è, come nel caso di Marat Bill, allungano i tempi di approvazione di un progetto di legge sulla libertà di espressione. Il forte aumento di arresti e la detenzione evidenzia il deterioramento della libertà di parola, in particolare per quanto riguarda le libertà di espressione negli spazi digitali. Al di là delle questioni inerenti alla censura, all'oppressione e all'utilizzo dei media volto a documentare i conflitti interni, la questione infrastrutturale in Libano è un tema che rispecchia il clima di austerity e di corruzione che avvolge la nazione. Infatti, l'infrastruttura per le connessioni telefoniche e di internet è in mano a un'unica azienda, Ogero, così come i gateway dei tre cavi in fibra ottica sottomarini che collegano il paese tramite i cavi IMEI, India, Medio Oriente e Europa Occidentale. Oltre a gestire la spina dorsale, Ogero stabilisce i prezzi di internet, costi enormemente elevati ad una qualità estremamente bassa, raramente in contatto con il web, è il risultato di un processo che costa al Libano un totale annuo di circa 4 miliardi di dollari, stando alle dichiarazioni rilasciate lo scorso giugno dal presidente della società Ogrego. La società deve affrontare molti problemi, tra cui la carenza di carburante, l'impossibilità di importare nuove attrezzature necessarie alla manutenzione e alla svalutazione della sterlina libanese. Inoltre Credit ha avvertito che il servizio internet libanese potrebbe interrompersi a causa della mancanza di dollari statunitensi e di quantità insufficienti di diesel necessarie alle stazioni di trasmissione e generatori di riserva. Lo scorso 5 novembre, per concludere, il ministro delle comunicazioni Johnny Cormo ha dichiarato a MTV News che stava lavorando per ottenere finanziamenti sufficienti per acquistare diesel. Ha promesso inoltre che il Libano non avrebbe assistito al crollo completo di internet, ma ha avvertito che potrebbero esserci interruzioni intermittenti in alcune parti del paese, affermando infine che le quantità garantite di diesel sarebbero state sufficienti per i prossimi 20 giorni. L'insolvibilità dello Stato rispetto al debito pubblico investe anche il settore delle infrastrutture e potrebbe causare, qualora non si riuscisse a fornire gli importi richiesti ai fornitori, la disconnessione del paese dalla rete globale. Ecco, Davide, con questo articolo che purtroppo ci ricorda il Libano con una chiave assolutamente, diciamo, fosca per quelli che sono gli ultimi capitoli della sua storia, che già è stata molto troppo sanguinosa. E comunque ci troviamo alla chiusura di questa puntata, vi salutiamo con questo brano del trio Sobran e ci diamo appuntamento alla settimana prossima sempre alle 19:30. Inoltre vi ricordiamo che potete ascoltare questa puntata in replica domani mattina alle 11 o anche il nostro podcast che sarà pubblicato a breve sul nostro canale Telegram, al quale tra l'altro, se non l'avete già fatto, vi invitiamo ad iscrivervi. Davide, direi di augurare una buona serata alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. Buona sera a tutte e tutti e alla prossima settimana. Thank you. Thank you.